È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. :18:38 il numero per chiamarci in diretta, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. I titoli del TG2. La terra trema ancora nel sud-est asiatico, 1000 morti accertati dopo le violente scosse di terremoto in Indonesia e nel Pacifico. Con lo tsunami si continua a scavare fra le macerie. Nel Salernitano un uomo uccide a colpi di fucile il padre, la madre e anche il cane, poi si toglie la vita. Era stato in cura per uno stato ansioso e depressivo. Arrestato in Campania un presunto militante delle Nuove Brigate Rosse, Massimo Papini, 34 anni, indagato anche nell'inchiesta sul delitto Biagi, lavorava come attrezzista in un set cinematografico. Madonna ospite del David Letterman Show, la pop star torna dall'Anchorman per parlare di passioni e progetti. Risposarmi di nuovo, meglio finire sotto un treno. Va bene, dopo l'ultima di Madonna andiamo a studio aperto. Migliaia di persone sotto le macerie, morte e distruzione. In Indonesia un'ecatombe, anche oggi nuove scosse, corsa contro il tempo dei soccorritori. Ecco le voci dei sepolti vivi. Completamente ubriaco la guida del fuoristrada, investe due 17enni in motorino a Locri. Uno muore subito, l'altro in ospedale. Per il pirata, solo un'accusa di omicidio colposo. Giallo di Garlasco, a studio aperto parla Maristella, la migliore amica di Chiara Poggi. Era innamoratissima, sognava di sposare Alberto. Racconta, sfumiamo sui titoli di studio aperto ricordandovi il numero per intervenire, 800 24 00 24. Sentite le magnifiche, splendide domandone del TG5 di questa mattina alle 8 a Silvio Berlusconi. Alle 8 il TG5, 8 minuti la presenza di Berlusconi. Ma questo non è nulla, naturalmente, perché sentirete le domande molto molto pungenti di Barbara Pedri, se non sbaglio. Eccoci. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e grazie. Allora, grazie a lei. Abbiamo aperto il nostro telegiornale parlando di queste drammatiche catastrofi in Asia e poi abbiamo appena visto invece il servizio della nostra inviata sul terremoto in Abruzzo e sulla ricostruzione. Dunque, da queste tragedie si può uscire anche in tempi relativamente brevi. La ricostruzione prosegue nel pieno rispetto dei tempi. L'Italia è dunque molto migliore di quanto si descrive e di come ci dipingono nel mondo, non è così? Lei ha detto che quanto è avvenuto all'Aquila costituirà un modello anche per altre opere pubbliche in Italia. In concreto, si può dire la casa per i giovani? Ecco, quindi abbiamo visto che l'Italia, quando vuole le opere, le può fare anche rapidamente. Ieri la Camera ha votato la fiducia sul decreto che contiene anche lo scudo fiscale. Quale vantaggio per le casse dello Stato? Allora, l'Italia sta uscendo da una crisi, dal tunnel della crisi che è stata pesantissima, una crisi mondiale. Come dovrà essere accompagnata la ripresa? Allora, Presidente, noi non la tratteniamo più, sappiamo che ha molto da fare e la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie, grazie moltissimo a voi e complimenti. Qualcuno mi suggerisce già i violini, a dopo i violini, c'è tempo fino alle 21 anche e soprattutto per i vostri interventi. Qualche perla da queste domande. Innanzitutto il collegamento tra la catastrofe in Asia e la ricostruzione in Abruzzo, che secondo l'intervistatrice procede naturalmente nel rispetto dei tempi. Poi un'altra considerazione, sempre dell'intervistatrice, non di Berlusconi: l'Italia è molto migliore di come la dipingono. Abbiamo visto che l'Italia può far bene le opere, le può fare in tempo rapido. Non lo ha detto Berlusconi, lo ha detto quella che lo intervistava. Lo scudo fiscale, quale vantaggio per le casse dello Stato? Questa è l'unica domanda. E poi l'Italia sta uscendo dalla crisi. Non lo dice Berlusconi, ma lo diceva la sua intervistatrice, dalle Iene di ieri sera. Una notizia di poche ore fa: è stato arrestato un ultra settantenne che oltretutto, insomma, qui conosciamo tutti. Lo hanno arrestato con l'accusa di aver approfittato di una ragazza minorenne. Perché no? Non fa, lasciatelo stare! Lasciatelo stare! È buono! No, è no, buono! Paolo! Lo vogliono per tutti! Tanti posti di lavoro! No, Paolo! Sembra Paolo! Che tu, pure a me, mi aiutato! Paolo! è il regista Roman Polanski. Questa era stupenda, delle Iene, il regista Roman Polanski. Perché sono arrivato a Polanski? Perché c'è una mobilitazione, a mio parere, vergognosa di intellettuali francesi ed italiani a favore di Roman Polanski, simile a quella per Battisti. Ci sono molte similitudini, molte somiglianze tra le due campagne, in nome del genio, in nome degli intellettuali, in nome del fatto che si fa parte di una casta. Naturalmente lo stupro è diverso. Se l'avesse commesso un camionista oppure un operaio, con tutto il rispetto, potrebbe anche marcire in galera. Mario Monicelli, uno dei totem del cinema italiano, sentitelo questa mattina da Alessandro Milan. Vogliamo che sia messo in carcere e chiuso dentro, e così, vabbè, l'ha pagato perché ha passato tutta la sua vita non potendo fare il mestiere che voleva fare, dove voleva farlo, dove era diventato importante. In fondo è stato sempre fuggiasco, un reietto. Pare che a questo punto si può fare bene di mettere in galera e a questo punto impedire che ci racconti qualche altra cosa sul rapporto con le persone, sull'olocausto, sul sacrificio, sulle verità, sui sentimenti. Quindi va bene, ho capito, non è pagato abbastanza. Non ha pagato abbastanza. Insomma, Monicelli dice che si può fare a meno di metterlo in galera in modo che continui a raccontarci altre cose sull'olocausto, sui sentimenti sui quali ha fatto film molto importanti. Polanski assolto per meriti cinematografici. Antonio Di Pietro e lo scudo fiscale. In questo modo, secondo voi, è quello giusto, il modo giusto per opporsi allo scudo fiscale questa mattina, con tanto di Coppola davanti alla Camera? 300 miliardi a favore di chi? Non degli italiani, ma di alcuni delinquenti italiani che, una volta preso quei soldi, semplicemente se li terranno nel cassetto e se li riporteranno all'estero. Cornuti e mazziati saranno gli italiani. La mafia, ringrazio. Torniamo in onda alle 18.47, 800 24 00 24. Molti mi scrivono: ha visto che De Magistris si è dimesso, ha letto il Fatto, ho letto, c'è tempo, avremo Luca Telese dopo, che è diventato giornalista del Fatto, per parlarci degli assenti del Partito Democratico durante le votazioni sullo scudo fiscale. Intanto abbiamo invitato non un giornalista, non un opinion maker, non un esperto, un intellettuale, bensì un cittadino comune che si chiama Marcello Mancini. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Lei è titolare di un negozio di ortopedia a Prati, a Roma, e ha scritto... Sono il responsabile di un centro di ortopedia tecnica. Bene. Lei ha scritto nei giorni scorsi per un motivo assolutamente normale, come ogni cittadino può fare e deve fare, anzi, quando c'è un problema che riguarda il proprio quartiere. Ha scritto una lettera ad un consigliere comunale del PDL che si chiama Bianconi, Patrizio Bianconi. Cosa chiedeva in questa lettera? Una mail scritta nel mese di giugno, chiedevo delle informazioni a un consigliere comunale, che chiedevo delle informazioni su come comportarmi, perché secondo una logica assurda l'AMA aveva spostato dei gassonetti. L'AMA è l'azienda per la nettezza urbana di Roma, diciamo. Sì, aveva spostato dei gassonetti in maniera del tutto anomala, incomprensibile. Di fronte al posto dove lavoro, dove abita? Sì. Vabbè, basta guardare via Tacito e si vede immediatamente che non c'è nessuna logica in questo spostamento. Allora chiedevo non entriamo nel merito, anche perché siamo una radio nazionale, tutti abitano a Roma. Chiedevo a Bianconi soltanto di avere delle informazioni. Sì, per ripristinare la situazione precedente. Come si evince chiaramente dalle mie quattro righe di lettera che gli avevo scritto. Caro Patrizio, scusa se ti disturbo, ma in via Tacito l'AMA ha piazzato dei cassonetti in modo assolutamente sconcio, senza nessuna logica, seguendo delle pressioni forse di qualche raccomandato. Mi fai sapere se esiste una normativa comunale in merito ad eventualmente come agire per far ripristinare un regolare ordine? Questa, perfetto, la mail, eccetera. La risposta qual è stata? La risposta ce l'hai davanti. No, io ce l'ho davanti, d'accordo, ma voglio che sia lei a leggermi alcuni passaggi fondamentali, perché è abbastanza sorprendente. La risposta è stata: egregio dottor Mancini, nella sua mail lei mi segnala una problematica personale che esula dalle mie competenze. Sarebbe svilente se un onorevole si dovesse occupare di cassonetti o monnezza, come dicono a Roma, tanto più se gli stessi si trovano dinanzi a un'attività imprenditoriale di un privato. Vabbè, in questo modo dice che lui non c'entra niente con, e questo potrebbe essere anche non si risponde così a un cittadino, ma comunque, ma il passaggio principale è dopo. Cerco di essere chiaro. Lei alle elezioni che mi hanno visto trionfatore non mi ha votato. Sì. Anzi, più volte nel corso degli anni. Più volte nel corso degli anni ha mostrato antipatia nei confronti di Borsoni. Questa è la mia libertà di avere delle simpatie e delle antipatie. Certo. Allora, nasce spontanea una domanda. Perché si rivolge alla mia persona? Per quale motivo dovrei adoperarmi per lei? Forse mi revo da un idiota che si fa sfruttare da chiunque? Oppure cosa ancora più offensiva, il suo servetto? E poi c'è il passaggio principale, lo leggo io questo. Io lavoro solamente per chi mi vota in quanto faccio politica, non in missionario. Sarebbe svilente e umiliante per la mia persona, la mia competenza e la mia professionalità consentire a chiunque di chiedermi favori che, come nel caso di specie, esulano dalle mie competenze. Dunque, o si impegna formalmente stipulando un patto di sangue con il sottoscritto a votare nel 2013 il sottoscritto onorevole Patrizio Bianconi al Comune di Roma e il direttore Andrea Zairisi al municipio 19esimo, o se lei non è intenzionato non si rivolga più alla mia persona. C'è anche un passaggio successivo perché Bianconi la invita a dare addirittura il suo telefono di casa, il cellulare e l'email. Per quale motivo? Perché se ha necessità di voti deve averli da me e dalla mia famiglia. E dunque per poterla rintracciare, per poter controllare se effettivamente questi voti sono stati dati o no. Sì. E quindi vabbè, poi finisce con una cosa anche abbastanza volgare. Senta, so che Alemanno si è molto arrabbiato con questo consigliere comunale, lei lo sa? Ma ho letto sui giornali, non lo so. Io ho letto sui giornali che Alemanno censura Bianconi. E che seguito può avere questa vicenda per quello che la riguarda? Ma guardi, sinceramente io mi aspettavo che i nostri rappresentanti politici in comune dicessero qualche cosa. Nostri, lei che intende? Nostri, miei, io sono un cittadino romano, quindi. Ah, gli altri consiglieri comunali, insomma. Sì, gli altri consiglieri comunali e lo stesso sindaco. Sì. Esprimessero molto chiaramente il dissenso nei confronti di questo modo di fare politica, perché qui il problema è mi rassicurassero, perché il mio problema non è tanto il pensare che un politico possa comportarsi in questa maniera, ma è il pensare che un politico si sia lasciato andare per le sue ragioni e che questo sia un malcostume diffuso. No, intendiamoci, Mancini, è evidente che la politica è fatta anche di consenso e di raccolta di consenso e anche di piccoli favori, no? O favori, insomma, chiamiamoli favori, ma sono la normalità. Un cittadino chiede una. Ho altre opinioni in merito. No, vabbè, un cittadino, intendevo questo, un cittadino chiede una cosa e un politico magari fa di tutto per accontentarlo. La cosa più incredibile è che in questo caso lei si è invitato a firmare una sorta di patto di sangue elettorale con Bianconi, con l'invito di fornire il numero di telefono suo e di suoi familiari, eccetera, eccetera. Questa è la questione. Alcune cose non si dicono nemmeno. È normale che se lei chiede un favore, magari un politico si può aspettare un favore. Insomma, non è nemmeno un favore. Lei chiede di ripristinare una situazione di normalità. Io ho chiesto delle informazioni, non ho chiesto neanche, non ho detto intervieni presso l'AMA. Ho chiesto soltanto di vedere che cosa diceva un regolamento comunale, se esiste, se ci sono delle regole. E io come cittadino devo rispettare, che le rispetti magari anche l'AMA o le altre aziende. Insomma, se viviamo in una società dobbiamo rispettare tutto. Senta, lei questo patto di sangue, questo lo firmerà un impegno elettorale? Immagino di no. Senta, lei può immaginare, sono rimasto di sasso nel leggere qualcosa. Non pensavo mai che nel 2009 ci fosse ancora un qualche cosa di questo tipo, no? Cioè era fuori dalla mia più lontana immaginazione. Immagino. Mancini, la ringrazio. Alle 18.55, questa è una vicenda di cui ci occuperemo più avanti, cercando di contattare anche il diretto interessato, uno dei due interessati, che è il consigliere comunale di Roma, Patrizio Bianconi. Intanto Filippo dalla provincia di Venezia, buonasera. Buonasera, sono Cruciani. E niente, io la chiamavo per primo volevo farle un complimento senza violini, naturalmente, perché no, non penso che sia il caso, perché io non è da molto che la seguo, però da quando la seguo, adesso la seguo costantemente. E pensavo, il mio complimento era che a lei sicuramente penso gli piacerà molto questo lavoro che fa, perché ogni sera ascoltare certe idiozie che dicono certe persone, penso che solo una persona che le piace molto il proprio lavoro. Per fortuna, lo possa fare. Filippo, per fortuna le idiozie sono una parte molto ridotta degli interventi degli ascoltatori, però vado al sodo perché dobbiamo dare la linea al giornale radio. Sì, volevo dire che praticamente io quando idiozie dico, quando che sento parlare di regime e cose del genere, penso non le opinioni degli ascoltatori, perché sono sacre quelle. Quando si parla di regime, niente, pensavo una cosa lì, che adesso stanno facendo queste primarie lì che sicuramente sarà per Sani, penso, il prossimo cosa almeno sembra aver vinto tra gli iscritti, poi bisogna vedere le primarie. Sì. È una mia opinione, penso che sarà Bersani. Allora? Però io penso una cosa, che sarebbe meglio che pensino già al prossimo, perché tanto non durerà più di tanto. Perché secondo me è una sfida impari quella che è con Berlusconi. Cioè ancora secondo lei non ci sono leader di spessore. TG3. Un nuovo sisma a Sumatra, dove si contano le vittime, si scava tra le macerie. Anche a Samoa cresce il numero dei morti. A Ginevra sul nucleare si incontrano faccia a faccia Stati Uniti e Iran. Il gruppo dei 5+1 chiede garanzie sui progetti iraniani. Fini rinvia domani il voto sullo scudo fiscale. Berlusconi con i soldi aiuti ai bisognosi. Di Pietro protesta in Coppola. È un regalo alla mafia. La recessione sta finendo, ma la ripresa sarà lenta. Aumenta la disoccupazione in Europa a record da 10 anni, lo dice il Fondo Monetario. Arrestato a Napoli un killer della camorra, era nascosto in cucina in un vano dietro alle pentole. I carabinieri hanno sfondato il muro. La nave De Veleni, il WWF scrive a Berlusconi, servono risorse economiche per recuperare subito il relitto. 10 milioni di euro giocati in 2 giorni, è un successo il nuovo gioco Win for Life. Il vincitore porta a casa una rendita ventennale. Caravaggio e Francis Bacon, due pittori lontani nel tempo, ma entrambi tormentati e maledetti, in mostra insieme alla Galleria Borghese a Roma. Eccoci di nuovo con i titoli di Sky TG24. Terremoto in Indonesia, nuova violenta scossa, almeno 1100 vittime secondo l'ONU. Il Fondo Monetario vede la ripresa nel 2010, ma è record disoccupati nell'Eurozona. Scudo fiscale, il voto finale slitta domani, ma il clima resta incandescente. Anno zero, stasera la escort da Dario, ospite in diretta, Rai nella bufera. PD sfida la segreteria di Franceschini, il voto dei circoli lancia Bersani. Rifiuti a Palermo è ancora emergenza, decine di roghi fino all'alba. Iran, prove di dialogo sul nucleare, nelle prossime settimane ispezioni al nuovo sito. Processo alla Juventus, le richieste della procura, 3 anni a Moggi e Giraudo, 2 a Bettega. Alonso alla Ferrari per 3 anni, lo spagnolo raggiante, un sogno che si realizza. Niente nozze per Madonna, la rivelazione della pop star al David Letterman Show. Senti, vieni un istante per favore, perché è una cosa che ci è capitata per la prima volta qui a Cantapuglia. Ed è... che è successo? Ma il fatto è che sono 5 minuti che sei così. Se noi dovessimo chiedere una votazione per il tuo topless, avresti 44. Ti giuro, ti garantisco. Complimenti, perché sei stata sportiva, disinvolta. E poi è bello. Sappiamo apprezzare queste cose. Grazie a Dio. Le sappiamo ancora apprezzare. Soprattutto quando sono fresche, tutte dritte, che guardano il cielo, le stelle, della quercia. Qui sei rossa come il fuoco. Hai vergogna. Per favore, veste tempo di più la prossima volta. La ragazza che parlava con Daniele Piombi, Cantapuglia 1984, è la protagonista in qualche modo della politica di oggi, uno degli argomenti della politica nostrana, cioè dire Patrizia Daddario 1984 col seno scoperto a Cantapuglia, di Daniele Piombi, che poi se ne uscì, come avete sentito, con quegli apprezzamenti. 800 24 00 24, naturalmente siamo aperti a tutti i vostri commenti sulla presenza questa sera di Patrizia Daddario ad anno zero. Le domandone del TG5, bisogna rimandarle assolutamente. Le domande così pungenti, così sferzanti di Barbara Pedri, se non sbaglio, così si chiama, conduttrice del TG5, questa mattina alle 8, intervento di Berlusconi di circa 8 minuti. Da notare il tono e il tipo di domande. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e grazie. Allora, grazie a lei. E, abbiamo aperto il nostro telegiornale parlando di queste drammatiche catastrofi in Asia e poi abbiamo appena visto invece il servizio della nostra inviata sul terremoto in Abruzzo e sulla ricostruzione. Dunque, da queste tragedie si può uscire anche in tempi relativamente brevi. Sono state, prosegue, insomma, la ricostruzione prosegue nel pieno rispetto dei tempi. L'Italia è dunque molto migliore di quanto si descrive e di come ci dipingono nel mondo, non è così? Lei ha detto che quanto è avvenuto all'Aquila costituirà un modello anche per altre opere pubbliche in Italia. In concreto, si può dire la casa per i giovani? Quindi abbiamo visto che l'Italia quando vuole le opere le può fare anche rapidamente. Ieri la Camera ha votato la fiducia sul decreto che contiene anche lo scudo fiscale. Quale vantaggio per le casse dello Stato? Allora, l'Italia sta uscendo da una crisi, dal tunnel della crisi che è stata pesantissima, una crisi mondiale. Come dovrà essere accompagnata la ripresa? Allora Presidente, noi non la tratteniamo più, sappiamo che ha molto da fare e la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie, grazie moltissimo a voi e complimenti. No comment, i commenti li lascio a voi. Radio Londra di oggi. Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda, parla Londra. Dall'alto delle montagne della resistenza anti-berlusconiana oggi abbiamo preso Umberto Eco, sentite. È gravissimo quando si fa un appello per la libertà di stampa, perché in una democrazia sana non ce n'è bisogno. Quindi la nostra attualmente è una democrazia malata? Un po', sì. E poi c'è anche l'Economist, il settimanale britannico non nuovo a uscite contro Berlusconi. In Italia è come ai tempi di Mussolini. E per oggi Radio Londra termina qui. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Ma voi non ci trovate qualcosa di scandaloso, di vergognoso in tutto questo sostegno di intellettuali e cineasti italiani e francesi, persino un ministro della Repubblica francese che si chiama Mitterrand nei confronti di Roman Polanski, del regista Polanski, come se far parte di uno star system, di un mondo esclusivo e patinato, rendesse le colpe di 30 anni fa più lievi, più giustificabili, più perdonabili, perché poi c'è un tribunale dei migliori, scrittori, registi, uomini di spettacolo, intellettuali o presunti tali, che adesso dicono perché hanno arrestato 30 anni dopo Roman Polanski che ha stuprato una ragazzina di 13 anni. Per esempio Tornatore, Giuseppe Tornatore, prossimo candidato all'Oscar per l'Italia. Che cosa ha detto Tornatore? A un uomo della sua età, Polanski, va risparmiata questa sofferenza. Non so se vi rendete conto, non si parla delle vittime, degli stupri, eccetera, ma di Polanski, la sofferenza di Polanski. È lo stesso Tornatore che ci spiega in questo modo così chiaro, in questo modo così evidente, perché ha firmato a favore della manifestazione di sabato sulla libertà di stampa. La situazione dell'editoria, della proprietà dei mezzi di comunicazione e di informazione del nostro paese contiene un'anomalia e quindi è giusto sancire questo principio assoluto della democrazia e della libertà. Io ho aderito all'appello. Non potrò andare alla manifestazione perché purtroppo, anzi o per fortuna, sono in giro per la promozione del film, altrimenti sarei andato anch'io. Non credo ci sia un'emergenza terrificante ancora, ecco. Però è bene che su certi principi non si transigga. L'anomalia Berlusconi, lui che si fa produrre i film da Medusa, e poi chiaramente c'è la promozione del film, dunque sì, ho firmato, però non vado alla manifestazione, non mi mischio alla plebe lì con i cartelli contro Berlusconi. 800 24 00 24. Alcuni deputati dell'opposizione, un folto gruppo di deputati dell'opposizione, PD, UDC e Italia dei Valori, devo dire due o tre dell'Italia dei Valori, non tutti, erano assenti al voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sul scudo fiscale. Se fossero stati tutti presenti, come scrivono diversi giornali, in primis Il Fatto, il condono probabilmente non sarebbe passato, almeno in quella votazione. Eppure i principali leader assenti del Partito Democratico, assenti quel giorno alle votazioni, così tuonavano contro lo scudo fiscale. È grave che nel nostro paese si vari un provvedimento che favorisce il massimo di opacità e indubbiamente costituisce un enorme favore per chi ha esportato illegalmente capitali all'estero e per chi ha frodato il fisco. Questo, secondo me, produce un danno grave al paese, al senso dello Stato. Prevede quello che hanno negato di voler fare. Non c'è neanche il coraggio di ammettere le cose. È un altro condono, un'altra forma di dire che le regole non servono, che l'illegalità viene sanata. Sullo scudo fiscale io spero che non si voglia collegare una ricostruzione dell'Abruzzo con una mega sanatoria fiscale, perché non abbiamo bisogno di questa cosa. Nell'ordine D'Alema, Franceschini e Bersani, tutti e tre assenti alle votazioni, probabilmente perché impegnati nella campagna per la segreteria del Partito Democratico. Ieri ce la siamo presa con uno dei conduttori di Uno Mattina, si chiama Stefano Ziantoni, perché in questo modo aveva intervistato, finito di intervistare Berlusconi. Risentiamo. Noi ringraziamo il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio Berlusconi, per questa telefonata. Grazie Presidente. Grazie. Perché così mi sento meno solo. Auguri. Grazie. Comunque ogni mattina siamo qui, Presidente, quindi questa è anche casa sua. Grazie di cuore, mi prendo in parola. Auguri. Qualcuno però ci ha inviato un video di una precedente intervista, sempre di Ziantoni, a Uno Mattina, in cui il giornalista del TG1 usava più o meno le stesse espressioni con il candidato alla segreteria del Partito Democratico, Bersani. Onorevole, in bocca al lupo, la partita Grazie. È lunga, Uno Mattina è casa sua. Grazie. E i telespettatori hanno voglia di sentire questi ragionamenti pacati ma precisi. Grazie, in bocca Grazie. Al lupo e linea al TG1. Nessuno però se l'era presa all'epoca con Ziantoni per avere utilizzato l'espressione casa sua. Anche noi, devo dire, ce la siamo presa con lui per l'espressione usata nei confronti di Berlusconi senza conoscere un passaggio precedente. Una notizia di poche ore fa: è stato arrestato un ultra settantenne che oltretutto, insomma, qui conosciamo tutti. Lo hanno arrestato con l'accusa di aver approfittato di una ragazza minorenne. Perché? No, non fa, lasciatelo stare! Lasciatelo stare, Paolo. È buono! No, è no. Buono! Paolo! Lo vogliono bene tutti, Paolo, guarda che tanti posti di lavoro! No, Paolo! Sono sempre Paolo. Più a me mi aiutato! Paolo, è il regista Roman Polanski. Questa delle Iene è sicuramente geniale. Io rido, ma sulla Fer Polanski non c'è nulla da ridere. È un caso che si può riassumere in questo modo. Sembra che ci sia un'immunità speciale, l'immunità che riguarda il genio, poi bisogna vedere naturalmente, gli intellettuali o pseudo-intellettuali. Invece gli altri stupratori, magari operai o impiegati, manager, non so, camionisti devono marcire, i giornalisti per carità, devono marcire in galera. Pensavate che il passaggio da Il Giornale al Fatto lo avremmo cassato, espulso, mai più invitato? Invece eccolo qui, Luca Telese, direttamente dalla sua nuova postazione al Fatto, via Orazio a Roma. Ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci qui, sentiamoci un po' di ascoltatori, poi veniamo a noi, al dunque, all'inchiesta che hai condotto sulle presenze, assenze, bisognerebbe dire, di deputati dell'opposizione, soprattutto del Partito Democratico, quando si è votato sulla costituzionalità dello scudo fiscale. Bernardino da Roma, buonasera. Pronto? Bernardino, dica. Sì, dunque io volevo dire, a proposito di quella storia del consigliere comunale, di quella lettera, ma a me sembra che ha un tono talmente paradossale che mi sembra quasi una presa in giro. Bianconi, questa cosa, dice lei. Questa cosa del, sì, questa cosa del patto di sangue proposto, io penso quasi che questo consigliere comunale abbia voluto prendere in giro questa persona che, tra l'altro, se non sbaglio, lui conosceva. Sì, certamente lo conosceva, Marcello Mancini, quindi, che avete ascoltato io prima. Penso che una persona, comunque un consigliere comunale, seriamente scriva quelle cose. Beh, certamente. Tanto un po' di presa in giro. Non lo so, glielo chiederemo. Abbiamo il cellulare, aspettiamo un attimo, poi lo chiamiamo. Stipulare un patto di sangue con il sottoscritto, votare nel 2013 l'onorevole Bianconi e poi un altro tizio al municipio 19esimo e poi ancora farsi dare il telefonino di casa, il cellulare, l'email per poter rintracciare quando ci servirà il voto suo e della sua famiglia. Certo, messa per iscritto ricorda pratiche che si utilizzavano nella prima repubblica, in realtà forse anche nella seconda. Luca, hai seguito il fatto? No, non l'avevo seguito, lo sto, come dire, apprendendo da voi. È una cosa venuta fuori dalle cronache romane di Repubblica, in cui un consigliere comunale del PDL, tale Bianconi, risponde ad un cittadino che conosceva, che gli ha mandato, evidentemente elettore del Partito Democratico, gli ha mandato una richiesta banale per lo spostamento di alcuni cassanetti in questo modo: tu non mi voti, non hai mai avuto simpatia a Berlusconi, dunque non ti posso aiutare e se vuoi il mio aiuto devi stringere un patto di sangue elettorale con me. Vabbè, insomma, cose di questo tipo. Però è talmente affollare al tutto aggiunto il comportamento di un citrullo. Sì, insomma, mettere per iscritto una cosa di questo tipo, insomma, gli scambi esistono, gli scambi, no, elettorali per, sì, cose di questo tipo, ma metterlo per iscritto è abbastanza assurdo. Andiamo ad un altro ascoltatore, andiamo dove? Francesco dalla provincia di Cagliari, buonasera. Buonasera Cruciani, volevo intervenire a proposito della, visto che stavamo parlando di Costituzione, mi sembra che il voto di scambio sia un sia anticostituzionale. Il voto dovrebbe essere libero dai propri interessi, dovrebbe essere dato per gli interessi della collettività. Anche per i propri interessi si può dare il voto? Ma non mi sembra. No, a lei non sembra, a me invece sembra che sia così. È legittimo, ma non deve essere scritto da nessuna parte. È descritto. Non è scritto. No, scusi, la nostra democrazia è una democrazia costituzionale. Sì, Francesco, io sto parlando di un'altra cosa, non di quello che c'è scritto in Costituzione, sto parlando del fatto che uno può dare il voto ad un partito, ad una persona, anche per interesse personale. Sì, per interesse personale, perché quella, la politica che fa quella persona coincide con i propri interessi, è una cosa assolutamente normale. Quindi il voto d'opinione e il voto clientelare sono la stessa cosa, secondo lei? Ma sono due voti. Cioè, vabbè che il voto d'opinione non esiste più, e quindi ci siamo anche tutti levati il dente. Perché qui è una politica degli ultras, hanno trasferito gli ultras del calcio nella politica. Vabbè, questo è un altro discorso, Francesco. Lei invece ha posto una domanda molto seria: il voto d'opinione o il voto, diciamo, di interesse? Ma guardi, distinguere tra le due cose è molto difficile, lo possono fare gli specialisti della politica, dei flussi elettorali. Telese, su questo, se vuoi, Luca. Che cosa pensi, cosa vorresti sapere? No, voglio dire, l'ascoltatore dice il voto di scambio, certamente il voto di scambio è una cosa... È la cosa più antica del mondo, ovviamente. Esatto. Ma in alcuni casi è una pratica, in altri è una scienza. Abbiamo visto inchieste sui voti a Catania, in Calabria, dove gli elettori vengono schedati uno a uno, dove ci sono meccanismi di controllo. Ripeto, per me questa è una cosa gravissima, ma eleggerla a sistema è un pazzo, è come un vigile che chiede il pizzo, come dire, di fronte a una telecamera. Cioè, è veramente il gesto di uno che non ha il minimo senso della realtà. Però sicuramente il fenomeno c'è, è orribile e questo gesto va condannato. Assolutamente. Allora, Francesco, vuole aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire che a proposito dell'informazione, della libertà, c'è un problema di omissione, cioè certe notizie non vengono proprio date, è una cosa gravissima, perché tipo? Anche il diritto all'informazione è costituzionalmente sancito. Ma quali sarebbero le notizie che non vengono che non date? Non esistano coercizioni nei confronti del popolo. Va bene, d'accordo, Francesco, quali sono le notizie che non vengono date? Penso alla manifestazione di sabato di Borsellino e parenti vittime della mafia in onore di Borsellino e Falcone, che non è stata rilevata da nessun telegiornale, eppure erano migliaia di persone. Ma questo non lo so, denunciavano un fatto gravissimo che sta alle origini della Seconda Repubblica, che vorrei sapere che documenti ha, a proposito di clandestini, vorrei sapere i documenti della Seconda Repubblica. Sì, Francesco, la devolution, il popolo l'ha Ma lasci perdere la devolution adesso, non c'entra niente. Ma è stata una questione di voto, scusi. Sì, no, Francesco. Io non eleggo liberamente un mio rappresentante. Senta, lei ha parlato di una cosa, del fatto che la manifestazione di sabato scorso di per Falcone e Borsellino non è stata, diciamo, riportata con grande evidenza dai telegiornali, eccetera, eccetera. Non lo so, credo che se ne sia parlato in realtà, Luciana da Cremona, poi andiamo con Telese. Luciana. Pronto, buonasera. Dica. Sente? La sento. Sì. Dunque, io volevo intervenire con due piccole considerazioni. Uno sul caso Polanski. Premetto che non conosco come si siano svolti i fatti e non ho avuto il tempo di informarmi ancora su internet per vedere come si sia svolta la vicenda 30 anni fa. Sì. Però la mia considerazione nasce dal fatto che comunque non credo che sia accettabile questa posizione di protezionismo, diciamo, della figura di Polanski, anche perché se in America ancora c'è la certezza della pena dopo 30 anni, ben venga. Tuttavia mi domando anche che ci faceva una ragazzina, di una bambina di 13 anni, e non so adesso dove si siano svolti i fatti, a casa di, se c'era una festa, un festino, qualcosa, quindi rimango perplesso sulla presenza anche di questa ragazza, di questa bambina di 13 anni. Sì, Luciana, questo non vuol dire che interrogarsi sui motivi di quella presenza è legittimo, la vicenda è oscura, ha alcuni punti sicuramente da chiarire, resta il fatto che la posizione di queste, diciamo, donne dello spettacolo, che abbiano preso una posizione a favore, perché comunque sì, tra cui Monica Bellucci e Fanny Ardanne, quindi mi vergogno, cioè, sì, ma a parte questo, perché comunque lo stupro c'è stato, la dignità di una donna è stata ferita, anzi è stata oltraggiata. Sì, ma a parte questo, Luciana, vorrei aggiungere una cosa: tutti quei politici, anche in Francia, che si sono pronunciati a favore di Polanski, in particolare il ministro della cultura, poi con che faccia si presentano davanti al loro elettorato proponendo leggi magari draconiane contro lo stupro, contro la pedofilia? Secondo me c'è una contraddizione clamorosa. Luca, eccoci qua. Oh. Allora, su Polanski dimmi una cosa, poi passiamo allo scudo fiscale. Cosa ti è venuto in mente leggendo la vicenda di Polanski? Se hai letto qualcosa, so che sei molto impegnato. Sì, ho letto e diciamo che mi sono divertito molto, perché a noi induce un doppio paradosso. C'era un meraviglioso fondo del direttore di Chi, Signorini, che diceva: è ignobile che un potente sia difeso perché è famoso e per le sue stravizi sessuali. Ora sono andato a leggere questo titolo e dicevo: ma di chi starà parlando? E parlava di Polanski. Io pensavo che parlasse di qualche altro potente. In realtà a noi il caso Polanski evoca l'ombra del Cavaliere, e quindi è curioso che su questo caso ci siano state posizioni assolutamente ribaltate: la sinistra garantista, perché è un intellettuale chic, la destra forcaiola, perché è un porco. Forse alla fine bisognerebbe trovare un punto di equilibrio. Sì, anche se, per carità, capisco il paradosso, però c'è un caso di, come dire, no, certo, volete se è accertato. Io l'unica cosa che non ho letto i pezzi con curiosità, perché questo caso dello stupro accertato, Polanski dice la bambina è consenziente, essendo una storia di mezzo secolo fa, forse bisognerebbe saperne qualcosa di più. Se effettivamente è stato uno stupro, è una cosa aberrante, cioè non ho ombra di dubbio su questo. No, sai che però c'è una borderline, potrebbe essere un caso di lolitismo, cioè conoscendo Polanski non credo che sia il tipo del violento picchiatore, cioè conoscendo non personalmente ma immaginandolo com'è. Se invece il lato oscuro entra in quella galleria di personaggi, ricorderete forse anche la polemica su Cohen Bendit e le sue frasi sulla libertà sessuale dei bambini, insomma c'è un lato pubblico, una sezione segreta in cui molti VIP in realtà hanno teorizzato il sesso con i minori. Pensa che un giornale britannico ha scritto: gli anni 70 sono un'altra epoca, se tutte le rockstar inglesi che hanno sedotto minorenni dovessero essere arrestate, forse il settore sarebbe decimato. C'è del vero, c'è del vero. Hai detto meglio una cosa che io provavo a ricordare. Sì. No, ma c'è del vero in questo, in quello che scrive, non mi ricordo chi, se il Daily Telegraph o non so, forse il Guardian. Però insomma resta il fatto che una tredicenne è pur sempre una tredicenne, e qualcuno si è sottratto, magari anche legittimamente, all'arresto, a un processo in questo caso. Senti, allora, quanti erano gli assenti dell'opposizione nei giorni scorsi durante il voto sulla costituzionalità dello scudo fiscale? 59 del PD, 2 dell'Italia dei Valori e 8 dell'UDC. E questo ha innescato una polemica di cui siamo abbastanza soddisfatti, cioè noi abbiamo provato a fare un'operazione di trasparenza prima di corsa, poi un po' più scientificamente ci abbiamo detto bene, siccome questi assenti sono tanti e i numeri dicono che se fossero stati in aula ci sarebbe stata una clamorosa sconfitta del governo, abbiamo detto agli elettori del centro-sinistra: guardate, vi diciamo i nomi, poi andate voi a giudicarli, chiamarli, telefonarli, chiederli perché non c'erano. Questo ha innescato un gioco incredibile, abbiamo avuto tutto il giorno telefonate. Come si sono giustificati? La maggior parte di questi assenti come sono giustificati? Allora, la maggior parte di questi assenti ci fanno pensare che al centro-sinistra serve una stanteria da campo, perché erano tutti all'ospedale, calcoli renali per Carra, l'onorevole capo di casa ci ha detto che sarebbe anche andato a votare con la flebo, ma al reparto rianimazione gliel'hanno impedito, quindi stava in rianimazione, però è riuscito anche a scriverci la letterina, ha perso il treno perché era dal medico Sandra Zampa, insomma proprio un'epidemia. Io non voglio mettere in dubbio, non voglio neanche sembrare troppo sarcastico, perché magari alcune di queste cose sono vere, però il gioco dei grandi numeri ci dice che se su 5 lettere 4 parlano di malattia, forse c'è qualcosa che non va. Il vecchio segretario d'aula del PC, il temuto Pochetti, detto Frusta, aveva messo una circolare per cui voleva il certificato medico. Qualcuno provò a presentare certificati medici scritti da colleghi parlamentari, e allora lui fece una controcircolare in cui diceva: non si accettano certificati medici dei compagni dottori. Ecco, sono un po' le cose. Fantastico. Sono queste. Ti faccio ascoltare, quando, Luca. E poi ci sono una casistica, domani faccio un altro pezzo sulle prostate che hanno deciso la storia della Repubblica. Il governo Cossiga cadde perché la Garavaglia era in bagno a fare pipì, e quando arrivò in aula seppe che era caduto il governo, si commosse, c'era ancora la DC. Alfredo Biondi, lo stesso, ebbe un problema, andò in bagno, tornato nel Salone Italia, disse: Cristo, ero a pisciare. E insomma, c'è anche, come dire, un punto in cui la politica più alta e la secolarizzazione dei costumi si toccano. Poi ci fu un voto in barella della Santoli, una deputata del PDC, che fu portata in ambulanza dalla Liguria fino a Lazio. Mi ricordo. Ti faccio ascoltare Luca, perché la questione è divertente naturalmente, ma è anche politica naturalmente, no? Sul ruolo dell'opposizione in Parlamento. Alcuni leader dell'opposizione, leader importanti, stiamo parlando di D'Alema, di Franceschini e di Bersani, tuonavano in questo modo contro lo scudo fiscale. Senti. È grave che nel nostro paese si vari un provvedimento che favorisce il massimo di opacità e indubbiamente costituisce un enorme favore per chi ha esportato illegalmente capitali all'estero e per chi ha frodato il fisco. Questo, secondo me, produce un danno grave al paese, al senso dello Stato. Prevede quello che hanno negato di voler fare. Non c'è neanche il coraggio di ammettere le cose. È un altro condone, un'altra forma di dire che le regole non servono, che l'illegalità viene sanata. Sullo scudo fiscale io spero che non si voglia collegare una ricostruzione dell'Abruzzo con una mega sanatoria fiscale, perché non abbiamo bisogno di questa cosa. Ecco, per dire che secondo me spesso l'opposizione si dovrebbe fare poi concretamente nel lavoro parlamentare quando si possono bloccare i provvedimenti del governo. Ti faccio ascoltare un'altra cosa, perché c'erano due assenti, credo, nell'Italia dei Valori. Uno di questi assenti si chiama Barbato ed è sempre uno di quelli che tuona contro Berlusconi in maniera incredibile. In questo caso, a proposito del provvedimento sullo scudo fiscale, parla apertamente di Stato mafioso, eccetera. Sentite. È ufficiale. Oggi il Parlamento realizza la più clamorosa riforma costituzionale. Non avremo più uno Stato repubblicano, come cita la nostra Costituzione, ma da oggi avremo, per effetto di questa riforma costituzionale che sta facendo la maggioranza di questo Parlamento, avremo uno Stato costituzionale e mafioso. E poi si è assentato al momento del voto. Che ti suggerisce tutto questo, Luca? Luca? Che dire, predicano bene e razzano male. Uno, sul secondo pezzo oggi ho fatto un cosa apparirà, no? Uno mette insieme quei puntini spenti del non voto e ricostruisce dei profili. Cioè, per esempio, dentro il PD tutti gli assenti erano, oltre a Franceschini, il suo ufficio stampa, il suo capo segreteria, il suo braccio destro, il responsabile della sua campagna congressuale. Che cosa vuol dire? Che probabilmente, visto che quel giorno, martedì, c'era in corso una delle incredibili e farsesche liti fra Bersani e Franceschini, no? Che fanno il risico sul tavolo. Erano occupati in queste cose. Del partito, secondo me erano occupati, io me l'immagino, a scambiare allora il comunicato, come lo facciamo, allora come rispondiamo. E fra l'altro è assente anche Bersani, e fra l'altro è assente anche il coordinatore della campagna di Marino. Cioè, come hanno detto molte persone che ho letto nei blog, dovrebbe essere che il congresso serve a fare politica, non che non si fa politica perché c'è il congressino. Oggi, altra cosa che ti segnalo, magari riesci a recuperare un audio, c'è la conferenza stampa di Bersani, due colleghi di agenzia che neanche conosco gli hanno detto: scusi, ma perché lei era assente? E lui non ha voluto rispondere. Si è alzato Ricky Francolevi, anche lui assente, e si è messo a urlare: giornalismo di merda. Lo trovate? Questa è una perla. Andiamo a recuperarla. Grazie a Luca Telese dal Fatto. Grazie. 19:53, andiamo a Modena. Francesco, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Dica. Io cosa devo dire? Oggi abbiamo la conferma, come l'abbiamo avuta tante volte, che all'opposizione, che cosa devo dire? Tanta gente si lamenta, poi sono i primi che non si presentano quando è ora. Poi, come elettore di centrodestra, questo non nascondo, ma sicuramente molto critico, mi trovo a sentire la sera alla sua trasmissione degli interventi dove la giudicano a lei Cruciani e a chiunque non prende apertamente posizioni contro il governo, non lasciano scampo a nessuno. Cosa devo pensare? Non lo so, me lo dica. Che durante la mia attività, che sia destra o sinistra, che chi può rubare ruba, quando invece c'è anche della gente onesta. No, Francesco, il punto è un altro, il punto è che se uno non dice che c'è il regime, che Berlusconi è un furfante, un criminale, un mafioso, è immediatamente messo nella casella del serbo. La ringrazio. Giovanni da Bologna. Mi complimento con lei, era da anni che non seguivo Radio 24, ho visto lo spot ieri sera, oggi mi sono sintonizzato e le faccio i miei migliori complimenti. Meno male, gli spot servono allora. Ma guardi, sono veramente contento, anche perché lo spot è molto graffiante, è stato molto bello, quindi... Io premetto, 39 anni, sono apolitico e da 20 anni ogni giorno acquisto 3 quotidiani, ancora ad oggi. Male essere apolitici, perché la politica serve. Sarò ignorante in questo aspetto, però. No, non è questione di essere ignoranti. Non sono mai riuscito ad identificarmi in nessun gruppo politico, perché purtroppo in questo senso, va bene. Il mio modo di interpretare la vita ci vogliono anche delle basi di integerità anche morale. Comunque, io stasera cosa posso chiedermi all'alba dei 40 anni? Che cosa offre una televisione di Stato come programma, che sia culturale, politico, lo possiamo vedere come vogliamo, offre uno spettacolo che ci stanno propinando ormai da qualche mese, con la soubrette principale, che altro di quello che ha già rilasciato in intervista, altro, cosa dovrà dire? Cioè, questo cosa che vi chiedo, cioè, proprio da persona che paga un canone, che accende una televisione, io stasera sicuramente non lo guarderò per partito preso, però dico, ma è questo il modo di voler scavalcare la problematica in cui siamo? Cioè, offrendo questo, io Santoro non lo conosco, né tantomeno ci tengo a conoscere. Però Giovanni, secondo me non è il modo. Io non so, che non è che le trasmissioni debbano essere utili, c'è una persona da intervistare perché fa notizia, perché fa aumentare l'audience, l'editore evidentemente non controlla quella trasmissione, come è evidente, ma qui potremmo aprire un discorso molto lungo, è una trasmissione che controlla interamente e solamente il conduttore, caso unico credo nella storia della RAI, punto e basta. Dopodiché Santoro, dal mio punto di vista, dal punto di vista giornalistico, non credo che ci sia nulla di nuovo che possa venire fuori, però la Daddario in prima serata è intervistata sulla RAI, è certamente un colpo, insomma è qualcosa che non stride con l'informazione, poi bisogna vedere il contesto, eccetera eccetera. La ringrazio. TG5. Oltre 1000 morti a Sumatra, dove la terra continua a tremare, sarebbero migliaia sotto le macerie, grave il bilancio a Samoa, vittime anche in Vietnam per un tifone. Svolta nel negoziato sul nucleare, l'Iran dice sì agli ispettori internazionali, dopo 30 anni primo faccia a faccia con gli americani. Berlusconi al TG5, la rotta del governo non cambia, priorità alle infrastrutture, con lo scudo fiscale, domani il voto finale, finanziamenti utili per le spese di buon senso. A Locri un ubriaco alla guida di un fuoristrada travolge e uccide due 17enni in scooter. Aveva un tasso di alcol superiore al consentito. A Salerno un uomo uccide i genitori, il cane e poi si toglie la vita. Era un assistente della polizia penitenziaria in congedo per problemi nervosi. Una donna napoletana alla soglia dei 300 kg decide di farsi operare per perdere peso, ma sono sempre più gli italiani che mangiano troppo e male. Dopo il TG5 Striscia torna il Dr. House, il medico più eccentrico e amato della televisione. Colpi di scena a ripetizione. Va bene, intanto alcuni siti mettono dei dubbi sulla presenza della Daddario questa sera ad Anno Zero, per esempio il sito internet del Corriere della Sera è giallo sulla presenza della Daddario. Andiamo a sentire il TG1. Catastrofe a Sumatra in Indonesia, già 1100 i morti, la cifra è destinata a salire e la terra trema ancora. Scudo fiscale, slitta domani il voto della Camera, Fini accoglie richiesta delle opposizioni, Berlusconi finanzierà università e sanità. L'amianto che uccide, parlano i familiari delle vittime, tanti luoghi da bonificare, rischi dai prodotti cinesi. Bimba di 10 anni mette la nonna su eBay e trova persino acquirenti, era troppo fastidiosa e lagnosa, si giustifica. Michael Jackson era sano, lo rivela a sorpresa il referto dell'autopsia, peso e altezze nella norma, soffriva solo di artrite. Olimpiade 2016, domani l'assegnazione, Rio de Janeiro sfida la Chicago di Barack Obama, Madrid e Tokyo le altre finaliste. Andrea da Torino, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, prima di tutto mi piacerebbe mettere la musica di Radio Londra. Vorrei metterla con il telefonino. Il mio comunicato è... Comunicato addirittura? Sì, di Radio Londra. Allora facciamo partire la sigla, un attimo. Sigla. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. È la sigla che abbiamo scelto per mettere dentro tutte le voci che ogni giorno si alzano dalla resistenza anti-berlusconiana contro il regime. Andrea, cosa ci vuole mettere dentro? La mucca muggirà, il maialino sarà cotto. E che vuol dire? Provate a pensare. Adesso no. Parlo di un'altra cosa. Questo no, me lo deve spiegare, non ci può lasciare così appesi. Pensiamo stasera, poi vediamo. No, me lo dica. Non mi lasci così, non l'ho capita. Secondo me se uno ci pensa un pochettino lo capisce, basta pensare che è ospite stasera da Santoro. Va bene. E volevo parlare di altro invece, della manifestazione che ci sarà sabato. Sì. Io non riesco proprio a capire, adesso volevo fare una cosa ironica sulla manifestazione, non riesco proprio a capire. Ci vanno, hanno firmato ma centinaia di giornalisti, gente come, non so, penso abbia aderito Fazio, Dandini, tutta gente che sta in video, tutta gente che ha dei giornali. Ma allora, se tu hai un giornale, se tu vai in video, ma dov'è che ti manca la libertà? Non riesco proprio a capire. Manca la serenità, Andrea, non so se ha sentito negli ultimi giorni, manca la serenità di lavorare. Ma la serenità manca. Lei è sereno? Lei è sereno? No, io non sono sereno per altri motivi. Magari più importanti. Sì, perché se io avessi 710.000 euro all'anno sarei leggermente più sereno, perché magari qualche problemino, o sono sereno perché ho due figli e sono contento di avere due figli, ma il problema sta che secondo me la libertà di stampa la fanno i giornalisti, non la fanno i politici. Così una trasmissione come questa, finché esisterà come questa, come anche dall'altra parte che c'è un'altra trasmissione, come ci sono al mattino c'è Milan, c'è altri programmi, quando c'è la gente che parla e voi non avete filtri, questo io sono 10 anni che ascolto Radio 24 da quando è nata, non avete filtri e può parlare chiunque, dire castroneria non castroneria, ma parlare chiunque, basta che non offenda, perché è sempre questa, finché c'è una trasmissione come questa, la libertà di stampa c'è, finché c'è vai dal giornale e trovi 20, 30, 40 giornali fatti comunque in modo diverso, dal Fatto al Giornale, da Libero al Riformista, all'Unità, a Repubblica, al Corriere, c'è libertà di stampa, quindi basta. Io mi chiedo soltanto una cosa, ma il giorno che Berlusconi se ne va fuori dalle scatole, che prima o poi succederà, perché a 73 anni prima o poi succederà, cosa farà questa sinistra? Cosa farà questo centro-sinistra? A chi si aggrepperanno questi giornali? Non so, troveranno un altro nemico? Non riesco proprio a capire, non si può fare politica. Cerchiamo di fare una cosa costruttiva. Il centro-sinistra deve cercare, invece di andare a distruggere Berlusconi, trovare un leader che combatta Berlusconi, perché non hanno ancora capito niente, che adesso loro incensano Fini, vuol dire che fra un anno, due anni, tre anni ci sarà Fini come presidente del Consiglio. Andrea, ho registrato tutto questo suo intervento perché è perfetto. C'è da aggiungere solo una cosa, che tra l'altro una manifestazione sulla libertà di espressione minacciata in Italia è offensiva nei confronti di tutti quei paesi dove effettivamente esistono problemi molto più gravi da questo punto di vista. La ringrazio molto. Alle 20:07 minuti abbiamo i titoli della 7. A Sumatra continuano le scosse in un'isola devastata dal terribile terremoto. Secondo l'ONU i morti sono diventati 1100, ma il bilancio è destinato a salire. Per le autorità locali tra le macerie ci sono ancora migliaia di dispersi. Scudo fiscale, nella bagarre slitta domani il voto di fiducia della Camera. Fini concede una proroga, ma non oltre le 13, per consentire alla Quirinale la conversione del decreto che scade sabato. Di Pietro a Napolitano, non firmare. Il PDL dice no a pressioni sul Colle, il PD chiede il voto segreto. Palermo soffoca per l'emergenza rifiuti. Nei quartieri della periferia la raccolta è ferma da 10 giorni. L'azienda municipalizzata ha aumentato la tassa, ma il deficit sale e il servizio è paralizzato. Tornano i roghi notturni di Cassonetti. A Copenaghen domani si assegnano le Olimpiadi del 2016 in corsa a Chicago, Rio de Janeiro, Madrid e Tokyo. Francesco da Roma, buonasera. Luciani, posso cominciare con una battuta? Come vuole, certo. Senta, no, perché con questa storia della Patrizia D'Addario e Berlusconi non hanno capito nulla, perché Patrizia non la dà a Silvio, la dà a Franceschini, la dà a Dario, quindi devono pure capirla questa cosa. Guardi Francesco, per questo tipo di battute che vanno benissimo, per carità, magari da lunedì avremo uno spazio così apposito. Va bene. Così, senta, tanto per dare un'indicazione anche ai nostri ascoltatori. Ok. Senta, niente, la trasmissione comunque di Santoro è una trasmissione che deve esistere, secondo me, non può essere affossata, perché comunque dà una alternanza, un'alternativa di informazione che altrimenti che fa da contraltare a quella di destra. Quindi, ma qual è quella di destra? È una trasmissione come, qual è la trasmissione di destra, Francesco? No, informazioni. Sì, ma l'informazione di destra, che è quella che lei chiama informazione di destra, diciamo un talk show di centrodestra o comunque targato principalmente con una sensibilità vicina a quella dell'attuale governo, dov'è? Ma guardi, sotto certi versi potrebbe essere la trasmissione di Bruno Vespa. Ma guardi, la trasmissione di Bruno Vespa è, come dire, è un po' più centrodestra, su. È ma molto che cruciale. Centrodestra? Non mi dica che è di centrosinistra. Ma non è questione di centrodestra, è qualcosa di politicamente corretto, il bilancino ai massimi, rispetto, ai massimi livelli. Tutto rispetto per la trasmissione di Bruno Vespa. Ma vabbè, a me però piace Bruno Porta a Porta. Ma deve essere anno zero, secondo me. Sì, ma io questo non so. È il mio commento. Sì, sì, va bene, va bene. C'è un'inchiesta che riguarda il ministro dell'ambiente Prestigiacomo. E in questa inchiesta, leggo adesso da un sito, il Tribunale dei Ministri accerti se per un certo periodo Stefania Prestigiacomo abbia fatto uso di una carta di credito del Dicastero cui è titolare per comprare articoli di moda e di pelletteria femminile. È la richiesta inviata dal Tribunale per i reati ministeriali della Procura di Roma, che ha iscritto come atto dovuto sul registro degli indagati il Ministro dell'Ambiente per il reato di peculato, insomma acquisti, secondo l'inchiesta, naturalmente con la credit card del Ministero. Vedremo gli sviluppi. Dove andiamo? Carla, provincia di Mantova. Carla? Buonasera, dottor Cruciani. Buonasera, signora, come sta? Non c'è male, grazie. Lei sta bene, complimenti per la trasmissione. Grazie, molto gentile, dalla provincia, dalla bellissima provincia di Mantova. Sì, proprio cosa... bella, la mia bella cittadina. Sono della provincia. Cosa ci vuole della dire? Vasta mantovana, quasi vicino a Catara. Però sono targata MN. È targata MN, beh, e conta questo nella distinzione, con Ferrara, certo. Allora, cosa ci vuole dire? Io intervengo brevemente soltanto relativamente al programma di questa sera condotto da Santoro. Cioè, sono veramente esterefatta che da possa partecipare con tutta quella Daddario, Patrizia Daddario, questa escort, insomma, questo argomento sta venendo fuori dagli occhi a tutti quanti. Se questa è la sinistra, premetto che io sono una socialista craxiana all'interno del PDL, vabbè, in sostanza seguo il ministro Santoro. Vabbè, da che cosa è indignata? Non l'ho capito. si è sbagliata, ministro. Semplicemente perché ovvio che non digerisco e non mi piace il sistema di fare televisione, i programmi, il taglio del programma di anno zero. Non mi è mai piaciuto, né con Travaglio. Questo eccetera. Mi sembra scontato. Ma data... bisogna seguire. È d'accordo? Quindi non voglio essere io stessa faziosa, perché i compagni hanno sempre seguito solo e soltanto le loro dottrine. Mentre invece io credo di essere più aperto, da questo punto di vista me lo riconosco, perché seguo Anno Zero e Floris in Ballarò tranquillamente. E fra i due programmi certamente preferisco Ballarò. Torno a dire, sono il centrodestra, di conseguenza... Va bene Carla, perché che cos'è che non le va a genio della presenza della Daddario? Perché se questo sistema di far politica veramente da parte o la sinistra è proprio la frutta, e dai, ormai e sta consegnando su un piatto proprio d'argento e forse qualcosa di più dell'argento il potere all'altra parte. Ho capito, dunque secondo lei ha ragione Berlusconi quando dice che la trasmissione di Santoro e altre trasmissioni portano voti al centrodestra. Andiamo con gli ascoltatori. Filippo da Milano, buonasera. Oh, buonasera. 50 minuti al telefono. Ha ragione Filippo. No, no, ma si figuri, ma immagino non è quello, cioè la trasmissione ha successo, quindi si figuri. No, io volevo una cosa preliminare. Io vorrei capire queste persone che ce l'hanno fuori dagli occhi della Daddario, di tutta questa situazione gossipare, eccetera, eccetera, riguardo a Berlusconi. Ma dove si informano? Nel senso che se si informano a Radio 24, oggi titolo la Daddario su Anno Zero, se si informano sui siti internet, benissimo. Ma se si informano sulla Rai e su Mediaset, di queste cose non ne sanno niente. Sì, però mi scusi Filippo, no, interrompo. Non è che sia questa domanda quando le persone fanno. Ma sulla presenza o meno della Daddario ad Anno Zero, lei dice non ci sono titoli di telegiornali, Mediaset. È vero. Ma io l'ho sentito qualche titolo. Lei, eh? Io qualche titolo l'ho sentito, Filippo. Sì, uno su TG3. Guardi, sì, non lo so, adesso TG1, TG2 qualche titolo l'avranno fatto sulla presenza o meno della Daddario. Ascolti, mi scusi Cruciani, abbia pazienza. Io proprio era questo l'intervento. Sì, però mi scusi, non è che la libertà di informazione passa attraverso il fatto che la presenza della Daddario o meno ad Anno Zero diventi un titolo del TG1 o del TG5. Guardi, lei sta facendo tutto da sé, Guardi che io sto dicendo io sto solo ponendo una questione, poi lei sta traendo delle conclusioni. No, ma io non sto traendo delle conclusioni, è una domanda che faccio anche a lei. Allora, io dico solo una cosa, lei, l'ho ascoltata, si figuri, lei ha detto questo della Daddario ad Anno Zero è un colpo giornalistico, lo ha detto lei, l'ho ascoltato benissimo. Ora, io dico, vabbè, la concorrenza non me lo aspetto, Mediaset, non me lo aspetto neanche dalla 7, ovviamente, stiamo parlando di concorrenza, mi aspetterei che una rete, cioè un'azienda Rai valorizzasse la sua pubblicità, il suo portare a casa delle cose, ma lasciamo perdere perché il discorso sarebbe gigantesco, su un colpo giornalistico. Qui il discorso si fa un po' più complicato, Filippo. Il discorso però, si fa un po' più complicato perché perché la RAI cosa, è controllata dai partiti e dunque per un certo periodo è controllata anche in parte, non del tutto dal governo. Sì, ma siamo d'accordissimo. Però guardi, cioè, la Dario non è che sia una escort o una prostituta qualunque. Ma guardi, fosse per me. Io la privatizzerei la RAI, non ci sarebbero problemi, si figuri. Io dico solo una cosa, che se Radio 24 o il sito del Sole 24 Ore riuscisse a fare uno stracolpo giornalistico, troverei normale e giusto e ci mancherebbe altro che non proponesse ai suoi ascoltatori, ai suoi lettori, e cercasse di mandare la notizia in giro e la facesse circolare al massimo. Ma infatti sta circolando al massimo la notizia. Sì, ma dove? Tra chi? Tra chi si informa su internet? Abbia pazienza. No. Va bene, ok. Guardi, le ripeto, si riascolti. Siccome era una cosa, io avevo fatto. Insomma, non ho capito che cosa ho detto, Filippo. Io ho detto semplicemente che è certamente un colpo, anche se la Daddario ha detto un sacco di cose. Non credo che dirà nulla di nuovo. Un colpo la presenza, non la presenza è un colpo giornalistico. Allora cosa significa questo? Che la RAI dovrebbe valorizzare questa presenza della Daddario, ma la RAI pensa anche ad aspetti legali, perché come lei sa le dichiarazioni della Daddario hanno creato anche un caso con possibili querele, ed è normale che un'azienda si voglia tutelare da questo punto di vista, o no? Però lei mi scusi, è troppo sgamato e insomma lei sa benissimo che basta una minaccia di querela a un giornale per come è strutturata l'informazione oggi, e la Gabanelli lo spiega benissimo. Per cui, cioè, chiunque, io stesso, se qualcuno facesse un'inchiesta su di me, io mi ritengo una persona onesta, ma se avessi qualche cosa attraverso un avvocato minaccerei una querela per 300 milioni di euro. E siccome nella legislazione italiana non c'è una corrispondenza tra quanto tu minacci e quanto poi tu devi pagare per il fatto che fatto una minaccia così, quindi stiamo parlando in realtà, abbia pazienza, nella sostanza di una dichiarazione, c'è libertà, in realtà anche gli studi riguardo alla modalità di informazione delle persone, pensionati, insomma della stragrande parte, stiamo parlando del 70-80% delle persone si informano attraverso la televisione. Se certe cose non vanno in televisione e non vengono annunciate in televisione, possiamo fare 1000 pubblicazioni, 100.000 pubblicazioni che hanno una tiratura di 1000 copie. Non sono d'accordo su questa ultima, sul fatto che la televisione sia così preponderante anche poi per le scelte politiche. Va bene, la ringrazio, Filippo. Allora, abbiamo Patrizio Bianconi, consigliere comunale a Roma. Buonasera. Buonasera, del Popolo della Libertà. Questo è evidente perché l'abbiamo già citato prima. Comunque fa bene ricordarlo. La ringrazio. Senta, io ci tengo molto al mio partito. No, ma sì, come è normale, tutti tengono al proprio partito, no? Ma questo non lo so, io parlo per me. No, certo. Ma lei è toscano? Di origine toscana, sono mia madre, la mia povera mamma era di Chiusi, zona, diciamo, della Val di Chiana, Ciano Terme. Si sente ancora, eh? Grazie. Da quanti anni è a Roma? Sempre, io sono nato e vissuto a Roma. Nato e vissuto a Roma, però l'accento toscano non è... si vede che... La mamma ha dato l'imprinting. Grazie. Senta, no, non mi ringrazi, non sto dicendo nulla di particolarmente gentile. No, di solito per me gentile. È un complimento, perché sì, solitamente sì. I toscani sono dei puristi della lingua, quindi chi mi riconosce questo solitamente dovrebbe assunto riconoscermi anche una certa purezza nelle espressioni linguistiche. Senta, lei lo conosce un certo Marcello Mancini? Sì, certo, ci conosciamo da numerosi anni. Perché vivete nello stesso quartiere? Non solo, perché io ero cliente, e lo sarei stato se mia madre fosse stata ancora in vita, della sua attività di ortopedia. Senta, Mancini è stato nostro ospite prima qui, ci ha spiegato quello che è successo, ci ha letto questa sua mail di risposta. E francamente io non ci posso credere che lei abbia scritto quelle cose. Sa com'è, lei è presente, visto che conosce i toscani, anche il tenzone di Forese Donati e Dante Alighieri. quando due persone che si conoscono e che hanno un minimo di confidenza e soprattutto uno stuzzica su determinate cose, si usano dei linguaggi che tante volte sono paradossali. Io le racconto brevemente, però vorrei anche, se mi consente, dirle anche quello che penso di tutta questa situazione. Ma comunque le racconto brevemente. Io sono stato eletto consigliere di Forza Italia nel 2001 al municipio 18, questa persona lo seppe perché io a lui non mi ero rivolto per niente, non perché non ce l'avevo nemmeno in mente. Per il voto, dice lei? Sì, no, di solito si va presso i conoscenti, ci si vabbè, propone. Ma questo no? È normale, certo. Certo, e si chiede se uno ha fiducia o meno su un determinato programma politico che uno porta avanti e poi cerca di attuare nel momento in cui viene eletto. Questa persona sapeva, perché io sono uno che comunque tuttora si muove ora su Roma, prima nel mio territorio, dove tra l'altro sono anche molto ben voluto da anni. Vabbè, questo lasciamo persone. No, beh, così, perché se uno riesce comunque da solo a riuscire a prendere un migliaio di voti in un anno. Vabbè, infatti i voti in quel caso, sia a livello diciamolo di quartiere, comunque, sia a livello comunale, bisogna prenderli. E iniziava ad avere un atteggiamento, diciamo, poco riguardoso nei confronti del mio partito, del presidente Silvio Berlusconi, apostrofandolo anche dinanzi ad altre persone con epiteti poco, diciamo, tranquilli. A quel punto è normale. Vabbè, siamo nella normalità, però Bianconi lo sa che Berlusconi suscita odio e amore, no? Sì, lo so, però ci sono dei modi e dei linguaggi per tutto, perché io le ripeto, io nei confronti dei leader del centro-sinistra, alcuni dei quali stimo anche a livello intellettuale, non ho mai usato delle parole che sono state usate dai detrattori del presidente Berlusconi. Vabbè, insomma, però andando al punto, Bianconi, andando al punto, che cosa significa? Questo cittadino, questo cittadino le ha scritto una mail. Io ho risposto in maniera provocatoria, le ripeto, con una provocazione, come era abitudine fra di noi. Era una provocazione, dunque, il patto di sangue elettorale, ma i numeri di telefono. Il patto di sangue, a lei le pare che noi ci riuniamo in una stanza, ci tagliamo le vene e facciamo il patto di sangue? Io non aderisco a nessuna setta satanica, quindi inevitabilmente nel momento in cui si sostanzia una frase del genere è una boutade, una provocazione. Io non sono libero di fare una provocazione, mi dica. No, ma Bianconi, guardi, io sto ascoltando per avere delle spiegazioni, siccome se uno leggesse questa mail senza magari sentirla per telefono, potrebbe pensare, se ne sentono tante. Ma questa mail era privata, no? Perché questa mail è... poi lui l'ha diffusa, No, mi ascolti, lui l'ha diffusa, certo. di cattivo gusto, ma al di là di questo, io quello che le dico, questa email è partita dalla mia mail privata, non dalla mail istituzionale del Comune di Roma, e era una mail di risposta a una persona con la quale ci sono stati dei pregressi, diciamo, di divergenze d'opinione. Io ho risposto in merito. No, ma questa è la sua risposta. Quando lei scrive, dunque, il suo telefono di casa, il cellulare, l'email per poterla rintracciare. Lo mettevo anche nei manifesti, si figuri un po'. Sa quante anonime ho ricevuto io di telefonate di detrattori e nessuna procura della Repubblica è mai intervenuta? No, sì, no, ma quando lei scrive, mi dia il suo telefono di casa, anche quello della tutta sua famiglia. Tutto provocatorio, no? Tutta una provocazione, una buttata. Certo. E anche naturalmente il patto di sangue, il voto nel 2013. No, io non ho fatto mai, ho i polsi intonsi, quindi inevitabilmente non l'ho mai sicuro. Allora, perché se è tutta una provocazione, e noi siamo qui e le crediamo naturalmente, perché una cosa è quello che viene scritto, una cosa è poi la sua spiegazione, perché il sindaco di Roma se l'è presa con lei? Se il sindaco di Roma lei legge le ultime dichiarazioni, ho davanti a me internet, dice: è uno scherzo, non ho motivo di non credergli. Io il sindaco è una persona che stimo, al quale voglio bene e che io porterò avanti fino alla mia morte. Però io qui davanti come porterò avanti Silvio Berlusconi. Vabbè, questo l'abbiamo capito. Però io ho una lettera che è stata rivolta, una mail anche qui, non so bene, che Alemanno ha mandato a lei, ma anche al presidente del Consiglio Comunale, eccetera, in cui si legge: ti invito da subito a cessare il compimento di qualsivoglia atto offensivo e che violi le più elementari. Ma l'abbiamo fatto, no? Abbiamo chiarito col sindaco. Il sindaco non sapeva di questa cosa. Cioè non sapeva che era uno scherzo? Non sapeva che questa persona la conoscessi. Ah, ho capito. Cioè pensava che... Ma senta, io ho altre cose, come tutti noi dobbiamo occuparci di una città. A me mi sembra strano, se mi consente 20 secondi, così le dico anche quello che penso, che io sono uno di quelli che ha portato in Consiglio Comunale una trentina di delibere di iniziativa consiliare su problematiche e su criticità che riguardano il popolo. Sì, ma adesso stiamo parlando di un'altra cosa noi, non di questo. No, aspetti. E penso di avere qualcosa di più importante da dire al sindaco, non ho che gli racconto chi è che è come amico, chi è che con quale scherzo, eccetera eccetera. È normale che queste cose lui non le poteva sapere. D'accordo, ma lei ci sta dicendo che il sindaco, quando ha scritto questa lettera inviata a lei, probabilmente non lo sapeva. Non lo sapeva. La ringrazio, Bianconi. I miei ossequi, grazie della telefonata. Ossequi anche a lei. Giuseppe dalla provincia di Roma, buonasera. Gianni, buonasera. Dica. Volevo intervenire sulla prima parte della sua trasmissione dove lei ha parlato del fatto di Roman Polanski, no? Sì. E mi sembra che lei giustamente non era molto d'accordo sul fatto che c'è stata una campagna in difesa di questo grande regista da parte di altri uomini di cultura sì. del nostro paese. Ma in effetti, linea di massima, io sono d'accordo con quello che lei dice, però io vorrei anche puntualizzare delle cose, cioè alla base di espressioni, di giudizio, di discussione come facciamo nella sua interessante trasmissione, io direi che è importante comprendere bene la conoscenza dei problemi, la conoscenza dei fatti. Quindi lei mi aiuti un pochino, mi sembra di capire, questo regista circa 40 anni fa ha avuto nel 77, rapporto, 32 anni fa. Quindi 30 anni fa ha avuto un rapporto con una ragazzina di 13-14 anni. Sì, i giornali americani in questi così giorni dicono. Sì, non così dicono, così dicono. Questo è accaduto, Giuseppe, non così dicono. Ecco, insomma, diciamo quello i che giornali americani in questi giorni stanno pubblicando gli estratti del processo, della vicenda, no, il processo non c'è mai stato, appunto perché poi Polanski è scappato, insomma, degli interrogatori della ragazza, eccetera. E ci sono dei particolari abbastanza agghiaccianti di quella serata. Comunque. Ecco, io non sono a conoscenza dei particolari agghiaccianti. Comunque, ecco, quindi in linea di massima sono d'accordo con lei, però ecco, io non so questi fatti agghiaccianti quali sono, se lei li sa con precisione magari. No, ma Giuseppe, qui non stiamo ricostruendo tutta la vicenda, il punto è un altro, ci sono anche ci sono anche dei punti oscuri, sembra che questo giudice fosse uno che a un certo punto ha detto a Polanski o al difensore di Polanski lo voglio mandare in galera per 100 anni, insomma ci sono degli aspetti anche un po' strani, diciamo. Sì, strani da discutere nella vicenda. Il punto è un altro, è l'appoggio che in questi giorni ha ricevuto Polanski da intellettuali, ecco, pure assimilato Polanski a uno stupratore che ci riporta a fatti di cronaca magari violenta. E cos'è se no, scusi, è uno che è stato con una tredicenne e il quale, se non consenziente, almeno così sembra, che cosa è secondo lei? Non era i primi rapporti, abbia perdonato. A parte che tredicenne consenziente sarebbe uguale, ma comunque. Sì, lo so, per la legge americana, non so se è come da noi, che insomma sotto i 16 anni è violenta presunta, è violenza presunta, ma questa sta in Australia, questa signora dice. Mi sembra di aver capito che l'abbia perdonato. Sì, Giuseppe, io non ho ancora capito lei dove vuole arrivare, però. Ma io, ecco, diciamo che. Cioè, ha chiamato per farsi dire che cosa è successo in America 30 anni fa? Io non lo so, mica ero lì. Sto leggendo quello che legge lei sui giornali. Con lei l'idea di massima, però, ecco, forse Polanski non va considerato uno stupratore. E come va considerato, secondo lei? Un grande regista e basta? Ma regista che ha fatto un grosso errore. Io sono rimasto molto perplesso, ecco, da un uomo di cultura che ormai ha 70 anni, quindi dovrebbe essere maturo, forse era il caso di ritornare in America e chiarire la situazione con le autorità americane. Forse era il caso, la ringrazio. Paolo da Firenze, buonasera. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Io su Polanski sono d'accordo con lei, in effetti si è sbagliato, nonostante lo adori proprio come regista, e lei sta sentendo ora il ticchettio di una macchina da proiezione, perché io, non so se si ricorda, sono un proiezionista che lavora a Firenze, e quindi insomma il cinema è quello dei Polanski particolarmente, però se ha sbagliato è giusto che come tutti venga processato, anche se è un grande artista, giusto? Eh beh, certo. E senta, io ho chiamato perché, allora, praticamente, secondo me, la questione Santoro e Dario non dovrebbe essere più un problema per l'Italia, da ieri almeno. E se non sbaglio, Silvio Berlusconi, il Presidente del Consiglio, ha detto che lunga vita a Santoro e alla Dandini, e tutte le volte che loro aprono bocca portano voti a lui. Aumenta magicamente stasera con la Dario 5 punti percentuali, vogliamo fare? Quindi questo, se non l'ha smentita, è una bellissima notizia, perché in questo caso siamo contenti noi ultimi tre gatti rimasti, no? Di sinistra in Italia. Ma non si butti così giù. No, va bene, ma insomma, diciamo, vogliamo dire a quant'è la percentuale di gradimento di Berlusconi? Ma non lo so, secondo lui al 68%, ma sai, allora, diciamo, sono sondaggi un po' così, 22%, no, va bene, dai, invece che tre gatti 22 è successo, e quindi siamo contenti noi. Dovrebbe essere contenta anche la dolcissima signora Mantovana, no, che era schifata dalla presenza della escort in trasmissione, però se deve portare voti alla casa, io credo che possa valere la pena, no? Beh, infatti il suo ragionamento non è del tutto folle, perché evidentemente se Berlusconi ha detto quelle cose lì, e le ha dette naturalmente, non le ha smentite, spesso succede. Ma meno male che non le ha smentite ancora. Spesso succede, insomma, dovrebbe essere risolta tutta la questione, perché infatti, Santoro e Dandini andranno sempre in onda, perché in questo modo portano vantaggio al centrodestra. L'abbiamo ritrovato tutti, Berlusconi? No? L'abbiamo ritrovato Berlusconi che dice Santoro e Dandini mi portano voti, sentiamo. Lunga vita la Dandini e Santoro, che non fanno altro che portare voti al centrodestra e ai moderati del centrodestra. Io una volta ebbi a dire in non l'ha smentito, Paolo, non l'ha smentito. Dunque siamo qui, effettivamente lei ha ragione. C'era un signore che diceva prima, ma insomma, ma questa sinistra che continua ad attaccare Berlusconi, ma se domani Berlusconi fra 100 anni dovesse, insomma, non esserci più in politica Berlusconi, ma cosa farà questa sinistra? Io personalmente penso che sarò abbastanza bene, grazie. Però l'ascoltatore di prima non aveva tutti i torti, è un po' quello che dice il sindaco di Firenze Renzi, che oggi aveva un impegno, non è potuto venire, speriamo per domani. Il suo sindaco forse, che ha detto, insomma, basta parlare di Berlusconi, quelli del Partito Democratico, i miei amici del Partito Democratico, i miei compagni di partito parlano troppo di Berlusconi. Un po' ha ragione il suo sindaco, no Paolo? No, va benissimo, ma innanzitutto possiamo dire che questo l'ha detto un esponente del Partito Democratico, e quindi all'interno del Partito Democratico ci sono anche dei distinguo. E poi va bene, io credo che il Partito Democratico stia amministrando anche delle regioni, dei comuni, delle province, insomma, dove tra l'altro, detto fra noi, che io abito in Toscana, mi risulta che ci siano dei buoni servizi, no, rispetto ad altre regioni. Vabbè, questo è un altro discorso, sto dicendo se Renzi ha ragione quando dice che il Partito Democratico parla troppo di Berlusconi e non dei problemi del paese. Ma sai, il Partito Democratico sono io, ad esempio, io sono il Partito Democratico, non parlo tutti i giorni e tutti i minuti di Berlusconi. I dirigenti del Partito Democratico. Come? I dirigenti, diceva Renzi, del Partito Democratico, i politici, non gli elettori. Sì, sì, no, ma che ci cioè, sia, è vero, diciamo, che parlano troppo di Berlusconi o no, secondo lei? Ma diciamo questo, che è chiaro che l'agenda, diciamo, tutti i giorni le sparano grosse tra lui, Brunetta, la Lega, così, e si resta abbastanza vittima, no, di questa spirale un po' mediatica, in effetti sì. Però è vero anche, ieri per esempio un ascoltatore diceva che c'è il berlusconismo, no? C'è un'ideologia, la definì così, ideologia, io mi rifaccio a Marx e Engels, le idee dominanti sono le idee della classe dominante, e questa è la definizione di ideologia. Ma e lei disse, lei Giuseppe, che lo ascolto tutte le sere, guai a chi gli fila le pietre, tra l'altro lo sfido a duello, perché guai a chi mi tocca. Bene, detto da lei mi fa piacere. Allora diciamo, no, lei diceva che non c'è l'ideologia del berlusconismo, ma allora se non c'è questa ideologia del berlusconismo, di base non ci dovrebbe neanche essere l'anti-berlusconismo, no? Oppure c'è semplicemente una dialettica per cui chi è all'opposizione sta all'opposizione, e magari, io sa, sono sempre stato abbastanza di sinistra, però 15 anni fa e cominciare a dire ma questi comunisti e qui e là, io diciamo, voglio dire, sarò anche anti-berlusconista, ma diciamo che il primo schiaffo non mi sembra averlo tirato a me 15 anni fa. Senta Paolo, va bene, la ringrazio. Questo rumore che abbiamo sentito, che film sta proiettando? Woody Allen in questo momento. Da una parte Woody Allen e dall'altra sala c'è una cabina centralizzata che proietta su due sale Cosmonauta, che è un'opera prima e tra l'altro molto carino. Cos'è Cosmonauta? È un'opera prima del Nicchiarelli, Francesca Nicchiarelli, che probabilmente avrebbe fatto arrabbiare moltissimo il ministro Brunetta, perché è un film carinissimo e parla di una ragazzina negli anni 60 comunista, che si sedicente comunista, che ha questo mito dei cosmonauti sovietici, no? I primi che andarono nello spazio, Gagarin, la prima donna. E perché dovrebbe far arrabbiare Brunetta? E perché prima di tutto è un'opera prima e forse c'è un po' troppo rosso questo film. Ah, ho capito. È stato finanziato probabilmente. Beh, ma se va in sala e magari prende i soldi, significa che è un'operazione vincente. Sì, sta abbastanza lavorando, della verità. Woody Allen ieri sera c'era il pieno, e vedere per me vedere una sala cinematografica piena, perché non siamo un multiplex, siamo una bisala, insomma, una piccola sala di abbastanza periferica in città, un centro, insomma, siamo lì, zona commerciale, zona stadio, ma insomma era bellissimo, vedere una sala cinematografica piena. E questa sera invece? No, diciamo stasera un po' meno, diciamo che il mercoledì c'è il biglietto a 5 euro. Ah beh, certo, quella rivoluzione che fece Veltroni quando era vicepresidente del Consiglio nel 96. Lo ricordo. C'è da dire che il ministro Prestigiacomo ha detto che non ha mai usato la carta del ministero per motivi personali. Dal TG5 di questa mattina, delle 8 minuti di intervista a Berlusconi, le domande erano queste, con tanto di violini sotto naturalmente. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e grazie. Allora, grazie a lei. E, abbiamo aperto il nostro telegiornale parlando di queste drammatiche catastrofi in Asia e poi abbiamo appena visto invece il servizio della nostra inviata sul terremoto in Abruzzo e sulla ricostruzione. Dunque, da queste tragedie si può uscire anche in tempi relativamente brevi. Sono state, la ricostruzione prosegue nel pieno rispetto dei tempi. L'Italia è dunque molto migliore di quanto si descrive e di come ci dipingono nel mondo, non è così? Lei ha detto che quanto è avvenuto all'Aquila costituirà un modello anche per altre opere pubbliche in Italia. In concreto, si può dire la casa per i giovani? Ecco, quindi abbiamo visto che l'Italia quando vuole le opere le può fare anche rapidamente. Ieri la Camera ha votato la fiducia sul decreto che contiene anche lo scudo fiscale. Quale vantaggio per le casse dello Stato? Allora, l'Italia sta uscendo da una crisi, dal tunnel della crisi che è stata pesantissima, una crisi mondiale. Come dovrà essere accompagnata la ripresa? Allora Presidente, noi non la tratteniamo più, sappiamo che ha molto da fare e la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie, grazie moltissimo a voi e complimenti. Beh, nonostante questo, qualcuno mi ha fatto la domanda, io continuo a pensare che la manifestazione di sabato 3 ottobre sia... Posso dire una parola io? Per me la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca! E continuo a pensarla così. Paolo, allora, un flash per chiudere. Sì, allora, mettiamo, diciamo che da oggi però, da domani il problema Santoro, Dandini, non c'è. Registriamo qualche volta quello che dice Berlusconi, no? Sì, porta voce a Berlusconi. Non lo dico ai dirigenti RAI, ai funzionari RAI, a quelli di partito del PDL, insomma, mandate in onda Santoro che tanto vi porta tanti voti e tanti auguri per le prossime elezioni. Alla conduttrice del TG5 che ha fatto quelle domande così efficaci, così pertinenti, così pungenti, che vogliamo dire? Niente, Paolo, una parolina. No, diciamo complimenti, e se qualche volta va in onda anche qualche voce un pochino che invece ce l'ha un po' di stizzosetta e invidiosa nei confronti dell'attuale capo del governo, insomma si bilancerà un pochino. Oggi diciamo che questo giornalista del TG5 ha bilanciato un po' una stampa che è tutta a mano alla sinistra, insomma, ecco. Va bene, grazie Paolo. Va bene, un abbraccione. Piero da Pavia, buon film per questa sera, due sale, una con il cosmonauta, l'altra con Woody Allen. Piero, buonasera. Dica. Scusi, volevo intervenire sulla presenza della Daddario questa sera da Santoro. Mi sembra che questa costituisca... Confermata, presenza confermata proprio pochi istanti fa. Penso che questa sia proprio una dimostrazione palese, matematica, di quanto sia condizionata l'informazione in Italia. Per me è esattamente il contrario. Va bene, però mi piacerebbe che me la motivasse, perché tutti i mezzi di informazione mondiale hanno in qualche modo intervistato questa signora. Mi risulta che sia stata intervistata solamente da El País, a me, poi da qualche televisione, ma non mi sembra che sia stata intervistata dalla CNN. Comunque dalla anche BBC, paesi esteri, eccetera, hanno avuto, perché probabilmente anche all'estero ha avuto una certa rilevanza, era una cosa non sicuramente secondaria. In Italia, che era proprio il paese in cui è originato il tutto, non c'è stato una giornalista, un televisivo o radiofonico che ha avuto il coraggio, secondo me, di intervistarla. Anzi, io, se permette, le vorrei fare una domanda. Sì. Lei nella sua trasmissione fa intervenire tantissimi ospiti, perché non ha mai fatto intervenire questa signora? Abbiamo chiamato il suo avvocato che ci ha posto una serie di problemi, una serie di paletti, eccetera, eccetera. Non mi voglio addentrare in questa cosa. Piero, non è che le cose non sono mai così semplici come vengono descritte. No, però, questa scusi, sera la Daddario va gratis ad Anno Zero, ha firmato una sorta di liberatoria. Altre volte non è stato così. No, d'accordo, infatti però mi ha dato una risposta, in qualche modo mi ha soddisfatto questa mia domanda. Sì, però ripeto, non è che la libertà di un giornalista va giudicata sulla base... Hai intervistato o no la Daddario? Se non l'hai intervistata e non gli hai chiesto se Berlusconi è un porco, allora non sei libero? Questo non è accettabile, perché in Italia... mancava questa cosa, mancava. Non è ma possibile. Quale mancava? Abbiamo ascoltato la Daddario in mille salse, no, Piero, abbia pazienza. No, non c'è stata televisione che l'ha fatta intervenire. Ma sì, non ci sarà stato. I giornali siamo alle solite, il giornale è una minoranza. Sì, però ma Piero, mi scusi, stata... io mi rifiuto di pensare, okay, di pensare che la libertà è di sostenere l'idea che se uno non intervista la Daddario, allora in Italia no, non c'è libertà. Non c'entra nulla, dimostra però che non cosa? È libero, che c'è servilismo, che cosa? Che siamo condizionati dal fatto... Certamente. Guardi, che la Daddario è invischiata in una vicenda giudiziaria che non è così semplice poi presentare in una forma di intervista, tant'è che è stata intervistata soprattutto da testate straniere che notoriamente non si addentrano molto nelle vicende giudiziarie. C'è per esempio un altro di quelli coinvolti in questa vicenda che si chiama Tarantini, che ha mandato un esposto alla Gcom per non mandarla in onda, diffidando la Daddario di intervenire ad Anno Zero. Insomma, ci sono una serie di cose che vanno tenute in considerazione, al di là del fatto che sicuramente la presenza della Daddario non fa piacere al Presidente del Consiglio e molti giornalisti possono essere, diciamo, tra virgolette, intimoriti da questo. Però io ripeto, mi rifiuto di fare questo ragionamento. Siccome la Daddario non ha avuto il grande pubblico, non ha avuto la prima serata in una trasmissione, allora in Italia siamo tutti... Bastava non anche la prima serata, anche a mezzanotte, però avere la possibilità di sentire cosa dice questa signora. Vabbè, guardi, la possibilità lei ce l'ha tranquillamente, basta che va su YouTube o su internet e si legge tutte le cose che vuole e si vede tutte le cose che vuole della Daddario. La ringrazio, Piero. Natale, provincia di Foggia, buonasera. Buonasera a lei, dottor Cruciani. È la prima volta che mi viene data la possibilità di intervenire a una trasmissione, mi fa piacere che avvenga con lei. Senta, io la chiamo dalla provincia di Foggia, lei lo sa benissimo, e quindi in Puglia. Beh, in Puglia stiamo vivendo una situazione un po' paradossale in questo senso. Noi siamo partiti con la vicenda del Dario da un'inchiesta alla procura di Bari. Questa inchiesta riguardava un certo signore che si chiama Tarantini, il quale è un imprenditore che ha a che fare con la sanità e che a un certo momento ha sostenuto le campagne elettorali del centro-sinistra. Da premettere che io sono un elettore di centrodestra che vota per il centrodestra non perché sia di centrodestra, ma perché sia contrario ad una certa sinistra. Ora, questo imprenditore sosteneva la campagna elettorale dell'onorevole D'Alema e nessuno ne parla, o ne parlano in pochi. Fra l'altro questo signore... Ma chi sarebbe questo signore? Mi scusi, ho perso un attimo il filo. Tarantini, no? Sì, non è che sosteneva la campagna elettorale. Tarantini sosteneva chiunque gli facesse comodo per i suoi affari, almeno così sembra, insomma, non mi pare che sia targato politicamente Tarantini. Natale, però riprendiamo questa conversazione così interessante su Tarantini domani, anche sulla base di quello che uscirà fuori ad Anno Zero, perché il tempo si chiude qui, il tempo finisce qui. Dobbiamo dare la linea al giornale radio delle 21. Ci sentiamo domani, la Zanzara @radio24.it. Ciao. La Zanzara.